Nova Lab 24. Nova Lab 24. La voce dell'innovazione. Buon pomeriggio, benvenuti Luca Tremolada al microfono, Luca dello Iacovo con lui. Insomma, salve a tutti. Buongiorno a tutti. Ecco, noi oggi facciamo una cosa originalissima. Parliamo di internet e facciamo il meglio del 2000, una cosa originale, non fa nessuno, perché ce la siamo inventata noi, insomma, il meglio del 2009 di internet. Noi abbiamo voluto però cercare, trovare, individuare quei fatti che in un certo qual modo hanno cambiato la rete. Per cui facciamo un viaggio nel tempo, torniamo a gennaio e cosa scopriamo? E scopriamo che a gennaio c'è un evento che ha cambiato il modo in cui vediamo internet e il 20 di gennaio il presidente degli Stati Uniti, Barack Obama, giura la Casa Bianca. Lo sentiamo un attimo il giuramento, perché sei anche un po' impapinato, se ti ricordi bene. Io, Barack Hussein Obama, giuro solennemente che io ricoprirò con lealtà la carica di Presidente degli Stati Uniti d'America e mi impegno al meglio delle mie capacità a conservare, proteggere e difendere la Costituzione degli Stati Uniti. Con l'aiuto di Dio. Congratulazioni, signor Presidente. My fellow citizens, cittadini, I stand here today, sono qui di fronte a voi in piedi oggi, humbled by the task, sono umile a ricevere il vostro saluto, grato per la vostra fiducia e terrò in considerazione tutti i sacrifici dei nostri antenati. Devo ringraziare il presidente Bush per aver servito la nostra nazione e poi devo ringraziare la sua generosità e collaborazione che ha mostrato nel corso di questo periodo di transizione. Ci sono 44 americani che hanno giurato in questa giornata di elezione, hanno lavorato per la prosperità e per la pace. Tuttavia, ogni volta che viene fatto questo giuramento in mezzo a tutta questa gente, è come un temporale, perché questa America è arrivata dove è arrivata non solamente per l'abilità di quelli che ci hanno preceduto, ma perché noi, la gente, siamo rimasti fedeli alle idee dei nostri padri fondatori e abbiamo sostenuto ciò che è stato scritto nei documenti costituzionali, e questa cosa deve essere fatta anche con questa generazione di americani. Noi siamo in una crisi, la nostra nazione è in guerra, c'è violenza, c'è odio, la nostra economia è indebolita moltissimo e ci sono delle responsabilità da parte di qualcuno, ma abbiamo anche sbagliato a operare le nostre scelte e a preparare la nostra nazione per una nuova epoca. Era Barack Obama e soprattutto, insomma, questa nuova presidenza è una presidenza, usiamo un'espressione trita e ritrita, nata nel segno di internet. Perché poi su internet lui aveva raccolto una parte dei finanziamenti per la campagna elettorale, si parla di 500 milioni di dollari che lui ha raccolto in piccole donazioni inferiori ai 100 dollari. E questo quindi ha cambiato un attimo anche il modo in cui si vede la rete, le possibilità che poi nascono dalla rete. Ma tu ci credi che abbia raccolto tutti quei soldi? Sì, certamente sì. Perché io mi fido. Ti fidi? Anche perché lui ha scardinato un metodo di raccolta del denaro, che ricordiamo che per la democrazia americana, che è la democrazia del dollaro, nel senso che devi pagarti le campagne elettorali, il denaro è importante. Ecco, lui l'ha raccolto non andando a chiedere alle lobby di potere, potere, alle lobby classiche, soldi, ma guardando alla rete. E questo, diciamo, è un fatto assolutamente rivoluzionario. Ha guardato anche alla rete si è rivolto poi alle comunità, e l'ha fatto con i social network, l'ha fatto con i blog, l'ha fatto con i video. Quindi ha cambiato, ecco, il modo di coinvolgere le persone nella campagna elettorale, e da questo momento in poi le campagne è molto probabile che saranno diverse da come erano in passato. Tra l'altro poi c'era stato, appena è stato eletto, ti ricordi, c'era stato tutto il problema: ma allora userà Twitter, userà la posta elettronica, bisogna, come sarà, io mi ricordo i pezzi, insomma, come sarà possibile tenere nel suo telefonino presidenziale, dove tutto deve essere controllato, un tweet. Misteri della Casa Bianca. Passiamo ad aprile? Passiamo ad aprile alla UNESCO Digital Library. Beni comuni. A questa grande biblioteca pubblica mondiale. Quindi immaginate che il sogno di una biblioteca che può raccogliere libri, che può raccogliere fotografie, che può raccogliere video, è tutto accessibile gratuitamente attraverso internet, e sono, diciamo, delle idee che arrivano da tutto il mondo. Ecco, Luca, il grande sogno di internet, cioè il sapere, cioè internet come una grande scaffale dentro i libri, la cultura, disponibile a tutto, disponibile a tutti, accessibile a tutti. È un grande sogno democratico della conoscenza, e l'UNESCO ha iniziato, ecco, a raccogliere tutti questi materiali sul suo sito. Solo l'UNESCO, tra l'altro, cioè, poi di fatto ci sono N piani su cui si sta combattendo, non è una parola giusta, perché poi ci sono gli editori, ci sta cercando di capire. C'è un tiro alla fune, in effetti, certo, su queste vicende, ed è interessante vedere che tutto questo è possibile perché sono state inventate delle licenze per la condivisione dei libri, della musica, che si chiamano licenze Creative Commons. Con queste licenze gli autori dicono: io voglio che la mia opera sia condivisa gratuitamente, che tutti ne possano fruire. E questa idea, che è stata lanciata poco più di 5 anni fa, ha iniziato a cambiare il modo in cui viene prodotta la cultura, perché adesso si possono condividere le cose, quindi si possono condividere i testi, si possono condividere le canzoni, si possono condividere i film. Chi è l'eroe di questa battaglia? L'eroe è Larry Lessig, che è un docente della Harvard Law School ed è stato il fondatore di questo movimento Creative Commons. Larry Lessig ha fatto venire non pochi mal di pancia, perché insomma la sua chiave è quella: attenzione, artisti, autori, scrittori, c'è un altro modo di condividere i risultati del proprio dell'ingegno, e questo modo non passa necessariamente attraverso editori, attraverso case discografiche. È uno, diciamo, degli aspetti più rivoluzionari della rete, questo. Sì, e infatti il libro che ha scritto si chiama appunto Remix. Remix perché è l'idea che tutti questi contenuti poi si possono rimescolare insieme, e quindi la produzione, in effetti, degli artisti è il primo passo di una strada molto più lunga, che porta poi a continui... A proposito di libri, riconsigliamo Pancapitalism, che c'entra molto sul remix, la musica. Sì. Ecco, Pancapitalism è un altro libro, insomma, loro ragionano sulla pirateria, cioè sull'aspetto innovativo della pirateria. Attenzione, una cosa diversa: non è un libro pro pirati, non è un libro che contro le case discografiche, è un libro, diciamo, a favore del remix. Ecco. Passiamo a giugno. Passiamo a giugno, e il 3 giugno viene lanciato su internet il concorrente di Google, che è Bing, il motore di ricerca della Microsoft. Ecco, noi abbiamo lo spot americano di Bing, sentiamolo. While everyone was searching, there was bailing. We're talking about bailouts. While everyone was lost in the links, there was collapsing. This is a mess. Our company's nearing collapse. We don't need queries and keywords if they bring back questions and confusion. From this moment on, search overload is officially over. Starting today, we need the right information to make the right decisions. Decisions that help us feel right. Decisions that help us get to the right place at the right time, even if it's right around the corner. And we need to make decisions about what the right stuff is. Right now, It's time for the one and only 100% engineered to cut through the decision engine. Ladies and gentlemen, boys and girls, it's time to be and decide. Tra l'altro, dietro a questo motore di ricerca c'è un italiano. C'è un italiano, si chiama Lorenzo Tione, e ha studiato in Italia al Politecnico, poi si è trasferito negli Stati Uniti per continuare la sua carriera, e la svolta è arrivata quando è andato a studiare al Palo Alto Research Center in California, dove ha iniziato a sviluppare delle tecnologie innovative per i motori di ricerca, e questo lavoro gli ha permesso poi di fondare un'azienda. E pensa che l'azienda che ha fondato è stata finanziata con 10 milioni di dollari, 12 per la precisione, però secondo quanto è stato detto dalla stampa è stata venduta a Microsoft per 100 milioni di dollari, e quindi è stata, diciamo, è stato un successo, e lui adesso lavora alla Microsoft e si occupa dello sviluppo del motore di ricerca Bing. Insomma, un motivo d'orgoglio, perché tra l'altro noi abbiamo avuto in trasmissione quest'anno Marchiori, che in un certo senso ha aiutato lo sviluppo del motore di ricerca, dell'algoritmo che sta dietro a Google. Abbiamo un altro italiano che sta dietro al concorrente. Insomma, c'è un po' d'Italia, ecco, dietro alle grandi tecnologie di ricerca semantica e non. Il genio italiano, ecco, si fa conoscere nel mondo, anche se qualche volta resta un po' in seconda fila. Cioè? Cosa c'è? Perché nel caso appunto di Tione, poi si è saputo anche dopo in effetti che aveva partecipato, ecco, a questo progetto e che aveva sviluppato delle tecnologie poi. Tra l'altro Bing si sta anche distinguendo, nel senso che dall'inizio gli osservatori, le riviste specializzate hanno guardato con un po' di sospetto, scetticismo, il motore di ricerca di Microsoft, un po' perché lo faceva Microsoft, per cui insomma c'è sempre quest'aura strana che circonda Redmond, però insomma c'è da dire che insomma ad oggi, fine 2009, è un buon motore, ha delle idee interessanti e ha anche degli spunti nuovi rispetto a Google, rispetto all'algoritmo di Google, per cui insomma teniamolo d'occhio anche per il 2010. Anche sembra poi che abbia conquistato negli Stati Uniti il 10% del mercato, e quindi rispetto a Google sta facendo dei passi in avanti, ma vedremo poi, ecco, come continuerà la sfida. Vedremo poi, e passiamo, che stiamo a giugno del 2009 e andiamo sull'iPhone. Sì. Abbiamo anche lo spot sull'iPhone, sempre quello, non so se italiano o americano, sentiamo. A qualcuno piacerà navigare in rete molto velocemente. A qualcuno piacerà scaricare file molto velocemente. A qualcuno piacerà trovare la strada molto velocemente, ma praticamente a tutti piacerà poterlo fare sul proprio telefono. Allora, insomma, l'iPhone, come tutti i prodotti Apple, come dicono gli esperti di marketing, fa splash, cioè quando arriva cambia un po' le regole del gioco, riesce un po' a spostare la ricerca tecnologica, insomma se ne discute tanto sui giornali, diventano icone come il suo stesso inventore Steve Jobs. Un po' cambiano gli stili di vita. E quello che ha cambiato molto poi l'iPhone in questi giorni, in questi mesi e anni, è stata poi la capacità in effetti di aprirsi agli sviluppatori, e quindi che cosa è successo? Che l'iPhone è diventato un punto di partenza per inventare delle cose. Ecco, facciamo un passo indietro, cioè l'iPhone che cos'è che fa? Cioè la grande invenzione dell'iPhone, oltre a essere un telefono tutto sommato bello, insomma, nell'aspetto, design, eccetera, eccetera, sdogana il concetto dell'App Store, cioè la possibilità di scaricare o via internet o via rete telefonica delle applicazioni, dei mini programmi che rendono il telefono altro. Lo trasformano in una console da videogiochi, lo trasformano in un metodo per acquistare oggetti. Insomma, chi più ne ha, più ne metta. Questa, diciamo, è la grande innovazione, no? È un po' un cambiamento, perché se prima noi eravamo abituati a pensare al libro come appunto a un oggetto fatto di carta, adesso il libro si può leggere anche sull'iPhone. La musica si può ascoltare attraverso iPhone, l'iPhone può diventare anche una telecamera portatile. Una spada laser anche, cioè se ne sono inventate, ecco questo, se ne sono inventate di tutti i tipi ed è proprio questa creatività che ha investito questo prodotto, in un certo senso ha influenzato anche tutti gli altri produttori, non solo, tra l'altro l'altra caratteristica è lo schermo, il multitouch, però... Credo che poi la cosa più interessante sia stata proprio l'App Store, cioè le applicazioni. Non a caso tutti gli altri produttori hanno aperto un proprio negozio di applicazioni. Ne sono state scaricate 2 miliardi, quindi una cifra enorme che dimostra anche poi l'interesse e la curiosità delle persone per qualcosa che poi sta cambiando un po' anche il modo stesso di pensare all'innovazione su internet. Tra l'altro anche il micropagamento, cioè queste applicazioni non sono chiaramente tutte gratis, alcune hanno un prezzo, raramente si va sopra i 10 euro, per cui insomma sono microtransazioni, sono programmi a basso prezzo, c'è chi pensa che insomma queste applicazioni possono in un certo senso drogare il mercato, questo soprattutto nel campo dei videogiochi, cioè questi giochi a così basso prezzo possono poi abbassare la qualità. Insomma, si sta discutendo di questo tema. Ogni volta che Steve Jobs tira fuori dal cappello un prodotto succedono cose, questo è poco ma sicuro. Da giugno si va, cosa c'è dopo giugno? Giugno, luglio. Dopo giugno ecco. Abbiamo luglio e abbiamo il cavo Sicom. Perché ci è sembrata interessante questa... Un'idea del cavo viene da dire, però insomma qual è la logica, perché poi questo l'ha scelto chiaramente dello Jacopo, perché abbiamo scelto il cavo Sicom come grande fatto che ha rivoluzionato internet. Perché questo cavo collega l'Africa meridionale con l'Africa orientale e quindi significa che adesso è più facile in quelle aree avere la banda larga. Avere la banda larga e quindi connettersi con una velocità maggiore, quindi questo può sviluppare l'economia locale, questo può avere delle conseguenze sulla diffusione della cultura. E in Africa, dove le infrastrutture fisse sono quelle più carenti, è stato quindi festeggiato come un passo in avanti nella rivoluzione, diciamo, digitale del continente. Accanto poi ovviamente allo sviluppo della rete fissa e quindi delle connessioni attraverso il cavo, c'è lo straordinario sviluppo dei cellulari che in Africa sta cambiando le cose. Pensate che il primo indirizzo web più che ha il maggior numero di accessi in molte nazioni dell'Africa, soprattutto dell'Africa orientale, è Facebook. Perché è un social network e perché le persone sono interessate a connettersi e quindi a scambiare idee, a scambiare delle opinioni. Come avete intuito, Luca Dello Jacopo è appassionato di quello che sta accadendo sul fronte tecnologico nei paesi in via di sviluppo. Visto che siamo fine 2009, facciamo un esercizio che di solito non si fa mai nei giornali perché siamo gente seria o si dovrebbe essere gente seria, cioè che cosa ti aspetti in Africa nel prossimo anno, insomma, una mini previsione alla luce di quello che stai osservando abbastanza quotidianamente, tra l'altro, su Nova 24 e su Sole 24 Ore. Allora, io penso che un punto di partenza interessante è quello di USAID. USAID è una grande mappa che permette di raccontare le elezioni e i momenti di crisi, e si raccontano perché tante persone segnalano quello che sta succedendo sul territorio e quindi coprono in effetti una serie di vuoti, perché non ci sono i giornalisti in quell'area, perché non ci sono organizzazioni che sono interessate a raccontare quello che sta succedendo. Effetti pratici ce ne sono stati, perché le elezioni in Kenya sono state raccontate anche attraverso USAID e quindi si sono avute delle testimonianze da aree remote, da villaggi rurali, di quello che stava succedendo. Ora, questo sistema che si sta sviluppando potrebbe avere un impatto nei prossimi appuntamenti elettorali in Africa, quindi nella democrazia. Esatto, cioè non è solo commercio, anzi poco commercio. Il boom dei telefonini in Africa di fatto ha un portato che ha più a che vedere con la democrazia e con la circolazione del sapere. Ricordiamo le copertine di Nova sul metodo di studiare la ricerca, cioè il metodo di condividere i dati degli scienziati africani, più quindi sul sapere che sull'aspetto commerciale. Questo è sicuramente un ribaltamento di qualsiasi tipo di paradigma. Cioè. Sì, se internet sta aiutando, ecco, la democrazia e quindi la raccolta, ecco, di informazioni e la riflessione su queste informazioni, poi attraverso gli SMS, che sono il metodo un po' più tradizionali, si sta iniziando un po' a sviluppare il commercio, ma perché appunto attraverso gli SMS si possono scambiare delle informazioni poi sul prezzo dei generi alimentari, si può concordare il prezzo di cose, e quindi diciamo che le telecomunicazioni davvero stanno abilitando uno sviluppo economico in aree dove fino ad adesso non era così. Ah, certo, ma facciamo fai una promessa che scriverai su NovaLab24 sul Twitter, ricordiamo www.twitter.com/NovaLab24. Perfetto, stavo impapinandomi. Metteremo tutti i link per avere un po' di informazioni. Anzi, metterai tutti i link per avere un po' di informazioni su quanto sta accadendo in Africa, nei paesi in via di sviluppo. Ma stiamo rivedendo, come spesso accade quando sta finendo l'anno, i fatti che hanno caratterizzato lo sviluppo di internet. Giustamente, dobbiamo essere orgogliosi di questa scelta. Come un album fotografico, in effetti. Come un album fotografico, peccato che siamo in radio, però è un foto radio, vabbè, lasciamo perdere. Allora, siamo arrivati a luglio e luglio, insomma, le cronache dei giornali, soprattutto in Svezia, avevano al centro la chiusura di Pirate Bay, il sito per lo scambio di file audio, video e quant'altro. Ed è stato appunto un momento in cui c'è stato un grande dibattito appunto a partire poi dalla chiusura di The Pirate Bay. Che tra l'altro noi abbiamo anche un contributo audio, cioè direttamente dalla Svezia, cioè un telegiornale che racconta, sentiamolo. Men åklagaren och musik- och filmbolagens företrädare pressade grundarna av Pirate Bay hårt för att visa att de var mycket medvetna om att det fanns upphovsrättsskyddat material på fildelartjänsten. Men grundarna själva tycker inte att upphovsrätten är det viktigaste. Det som driver mig är ju demokratiseringsprocessen och det som händer kring allt det här, yttrandefrihetsidéerna som finns bakom det hela. Och att helt enkelt ta bort makten från ett bolag som sedan bestämmer vad andra människor ska delta i. Jag är ju en väldigt stor tillgängare av deltagarkulturen och jag vill att alla ska vara delaktiga i saker. Non abbiamo capito molto, però insomma, raccontacelo tu, Luca. Diciamo che The Pirate Bay è questo sito dove venivano condivisi dei link per scaricare dei file ed è stato chiuso perché i materiali che erano condivisi erano di fatto illegali, perché veniva violato il copyright. E quindi è in effetti una tappa importante per capire poi il passaggio che sta avvenendo dal modello di Napster, che è stato uno dei primi software per condividere musica, e in quel caso anche era illegale, al modello invece di iTunes, cioè alla condivisione poi legale di musica, che viene giustamente poi retribuita, e quindi diciamo allo sviluppo poi di un'economia attorno. Ecco, cominciamo a dire due cose. Innanzitutto, che Pirate Bay è stato chiuso, ma non sono stati chiusi tutti i siti che consentono lo scambio di file illegali. Questo va detto, nel senso che non si è risolto un problema chiudendo Pirate Bay. C'è anche da dire che gli stessi fondatori di Pirate Bay promettono battaglia, cioè promettono di in un certo senso tornare, sono convinti di aver ragione, cioè loro sostengono che se loro sono colpevoli perché hanno dei link che consentono di scaricare musica illegale, allora lo è anche Google. Luca Tremolato al microfono, stiamo passando in rassegna nella migliore tradizione della TV tradizionalista, ti piace? Cioè, lei Luca Dello Iacovo al microfono con me che sta annuendo, insomma stiamo rivedendo, come spesso accade quando sta finendo l'anno, i fatti che hanno caratterizzato lo sviluppo di internet. Giustamente, dobbiamo essere orgogliosi di questa scelta, ma il cammino è ancora lungo. Però giustamente, come dicevi tu, insomma, noi abbiamo visto Napster chiuso, poi risorto, poi rinato, poi ancora richiuso. L'unico modello che in questo momento sta in piedi, proprio perché è legale, è quello di iTunes. Di iTunes. E magari, ecco, nel caso di Pirate Bay, il punto è che magari l'uso della tecnologia è illegale, però il modello, la tecnologia appunto BitTorrent, che è al di sotto, certo, diciamo, è comunque un tipo di tecnologia per la condivisione di, certo, video e di musica, che comunque potrà avere un impatto importante, perché la televisione norvegese, per esempio, distribuisce i suoi programmi attraverso BitTorrent, che è la tecnologia che è al di sotto poi. Sì, qua il dibattito è sempre chi è padre di una la tecnologia è colpevole o innocente, chi ha costruito la tecnologia è colpevole o innocente, se la tecnologia è open source come si fa a trovare, insomma, è uno dei grandi capitoli anche questo della storia di internet, che finora non ha trovato una, quantomeno dal punto di vista legale, dal punto di vista di un inquadramento globale di questo tipo di problema, non c'è una soluzione univoca. Anche ecco, perché internet, come dicono molti, non ha una giurisdizione, in effetti è internazionale, supera le frontiere e quindi diventa molto complesso riuscire poi a trovare delle... Supera a tal punto le frontiere che in Finlandia, e qui siamo ad ottobre, che cosa succede? In Finlandia il grande annuncio dell'anno, che diciamo ha entusiasmato molti appassionati di internet, è stato annunciato che entro il luglio del 2010 sarà garantito un megabit di connessione a tutti i finlandesi. Questo vuol dire che hanno la connessione in banda larga e quindi hanno una connessione che gli permette vedere dei film oppure di fare tantissime altre cose. Un megabit è poco, però lo diciamo, è pochino, però, però si sono impegnati poi in qualche anno a raggiungere i 100 megabit per insomma, tutti. Meglio un megabit oggi che niente domani, però insomma un megabit è poco, però insomma la notizia è da applauso perché il fatto di cioè per la prima volta uno stato, una nazione, insomma, sancisce quella che è la digital prosperity di internet, cioè il fatto che internet non può essere un motore di produttività, può essere un motore di sviluppo e in quanto tale deve essere un diritto. È un diritto ed è un diritto che aiuta poi una nazione appunto a crescere, a guardare verso il futuro con ottimismo. Sì, anche questo aspetto. A me, io devo dire che sono rimasto più affascinato dall'aspetto economico, cioè attenzione, cioè il decisore pubblico che capisce che nel momento in cui rende disponibile internet a tutti, è convinto non solo culturalmente, ma anche economicamente, e questo porterà beneficio al proprio paese, secondo me questo è un passaggio molto importante. Poi c'è anche da capire perché queste iniziative le troviamo sempre nel nord Europa, le troviamo spesso, non sempre, perché insomma non sono diciamo un'avanguardia di innovazione, però insomma importante. Ecco, c'è una cultura della condivisione anche in nord Europa che ha delle radici molto profonde, pensa che in Svezia sono storici i circoli per la condivisione dei libri, dove le persone poi si scambiano i libri e questi circoli sono promossi dalle librerie. Diciamo che vorremmo essere tutti un po' più finlandesi? Sì. Ma sì, diciamolo. ICANN. ICANN, che cosa è successo? Siamo sempre all'ottobre, sempre lo stesso mese, siamo nel 2009. E l'ente che regola, che presiede all'internet globale ha deciso che sarà possibile scrivere gli indirizzi internet nella lingua nazionale. Questo vuol dire che potrò scrivere l'indirizzo internet in arabo, lo potrò scrivere in cinese, lo potrò scrivere in tutte, nella maggior parte delle lingue che sono parlate. Ecco, diciamo che non è più usacentrico, non è più Stati Uniti... È un cambiamento di prospettiva globale, perché da questo momento in poi anche le persone che non conoscono l'inglese potranno avere un accesso più facile a internet. Questo è un po' il significato di questa decisione, cioè fino agli anni scorsi c'era una polemica forte, insomma l'ICANN veniva visto un po' come una sorta di fortino americano da un certo punto di vista. In qualche modo questo fortino, vuoi per l'importanza della Cina, dei paesi in via di sviluppo, dell'India, di quello che sta accadendo nel mondo, insomma ha cominciato ad aprirsi sono aperte delle brecce nelle mura di questo fortino e quindi iniziano a parlare più lingue e iniziano poi quindi a dare accesso alla conoscenza anche a tante persone che finora erano escluse proprio per la barriera linguistica. Novembre, Twitter, la parola più cercata nel mondo. attenzione, non solo Twitter, questa è la ogni novembre esce questo rapporto che va un po' a censire le parole più utilizzate nei motori di ricerca. Scopriamo per esempio Michael Jackson a livello globale, al secondo posto Facebook, il primo posto dove? Facebook in Italia, perché in Italia appunto ricordiamo che c'è stata una grande esplosione negli ultimi mesi di Facebook. Twitter l'abbiamo già detto, una delle parole più cercate se non la più cercata. Poi siamo a novembre, stiamo guardando le parole più utilizzate nei motori di ricerca. Adesso stavo sfogliando nel 2009, sempre stavo sfogliando Google. Tra l'altro una cosa curiosa, c'è attività paranormale al settimo posto. Che lascia un po', e anche Natasha Richardson, che non conosco, devo dire, non lo conosce neanche, perché non siamo bravi ragazzi. Ecco, allora, oltre a altre parole che ti hanno colpito, Vampire. Nel mondo vampiro. Una delle più cercate è stata Vampiro, certo, è probabilmente collegato alla saga di New Moon. Che non abbiamo fantasia. Io vedo anche Bebo, che non so cosa sia. Però vabbè, comunque ci sono delle parole di cui non conosco né il significato né la collocazione geografica. Comunque lasciamo perdere e passiamo al decimo, l'ultimo grande innovazione scoperta di internet che ha cambiato la rete. E Facebook, il social network, ha raggiunto i 350 milioni di utenti. In pratica la popolazione degli Stati Uniti. A lot of what we've done is made it so we can grow internationally. So there's a team at Facebook that worked on the international strategy, and basically what they did is they made it so that all the language on the site, all like 300,000 words, it's a really language-intensive site because of things like newsfeed, could just be translated by people into their native languages. And we just opened it up and made it so that people could translate it themselves. And it's just been a method that's worked extremely well. More or less, più o meno. E quindi immaginate che 350 milioni di persone del mondo sono collegate attraverso questo social network. E quindi si iscrivono, condividono cose. E pensate che anche Nova... E anche Nova Lab è collegata in Facebook. Noi abbiamo una pagina all'indirizzo www.facebook.com/novalab24 e abbiamo anche il nostro Twitter www.twitter.com/novalab24. E rimaniamo nel mondo di internet, ma parliamo del rapporto tra la rete e la psicanalisi. Abbiamo trattato l'argomento nella puntata dello scorso 13 novembre, ne ascoltiamo ora uno stralcio. Cerchiamo un po' di dare un taglio nuovo a un mondo che è sempre rimasto in un certo senso confinato sulle tecnologie, invece si sta estendendo, può diventare un aiuto, può diventare altro. Noi abbiamo in studio Giuseppe Riva, professore associato di psicologia alla Cattolica di Milano, buongiorno. Buongiorno a tutti. E abbiamo una scheda su Giuseppe Riva e su quello che sta facendo. Dimenticate il lettino dello psicoanalista e i salottini impregnati di fumo. La terapia psicologica si fa anche nei mondi virtuali, dove i pazienti imparano ad affrontare traumi, paure, insicurezze. In che modo? Le persone si siedono davanti a un monitor, rivivono le esperienze e sviluppano la capacità per superarle. Da anni Giuseppe Riva, professore di psicologia dell'Università Cattolica, esplora le opportunità degli ambienti digitali per aiutare i pazienti a guarire da fobie, stress post-traumatico e altri disturbi. Non sono progetti isolati. Riva e i suoi collaboratori hanno elaborato un software per costruire ambienti virtuali terapeutici. Il programma è scaricabile gratuitamente da chiunque su internet. Nel 2007 Riva ha ricevuto il premio Cyber Therapy Excellence. Insomma, fobie, stress post-traumatico, noi chiediamo ai nostri ascoltatori di chiamarci all'824-0024 o di scriverci al 349-238-6666, perché insomma, vediamo di capire in che modo lo psicologo online, che non è uno psicologo online quello di cui stiamo parlando, però insomma gli strumenti del web, di internet, della realtà virtuale possono aiutarci. Prima parlavamo con Giuseppe Riva di ragni, se non sbaglio, cioè, sì, esatto. Per capire di che cosa stiamo un po' parlando, ecco. Beh, cerchiamo di calare subito l'idea, perché la realtà virtuale può essere utile per affrontare e guarire una paura. L'esempio che raccontavo qui in redazione era quello dei ragni.